noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Oh, 800 24 0024 349 238 6666. Poi potete seguirci sui nostri social, Twitter, Facebook, insomma, ampia gamma, ampia scelta. Oggi menù ricchissimo, ci servirebbero due ore di trasmissione. Allora, questa sera gioca la nazionale a Torino contro la Macedonia. Serve un punto per essere sicuri di andare al playoff, ma bisognerebbe avvisare Ventura che ieri, non so se l'avete sentito, a un giornalista che gli chiedeva se in caso di sconfitta si dimetterà, ha risposto anche un po' piccato che non era ben informato e che la nazionale è già aritmeticamente ai playoff, cosa che non è. Serve un punto. Poi nella realtà di punti ne servono di più, ne servono sei nelle prossime due partite, anche per evitare che ci sia il rischio di non essere test di serie al sorteggio. E poi sapete come può andare a finire. Poi c'è Berlusconi che ha sparato a zero sul nuovo Milan. Vi diciamo tutto e ne parliamo con un grande tifoso del Milan che lavora anche con questa società. Dopo il traffico delle 14:15. Poi c'è De Laurentiis che ha detto che vuole tenersi Sarri per 10 anni, ma se se ne va se ne farà una ragione. Spalletti che difende il VAR e accusa chi ha un'opinione contraria di voler tornare a una situazione in cui aveva dei vantaggi. Marotta che oggi ha detto che la Juve non è contro il VAR, ma si fa delle domande. Insomma, ci sono tantissimi argomenti, però io vorrei partire con il tango triste di questa notte. Tango triste, carissimo Daniel Martinez, ciao. Ciao, come stai? Bene. Io bene, tu meno, credo. Un po' meno, però con fiducia, sempre con fiducia. Sì, sempre con fiducia. Ce l'ha anche San Paoli, me lo fate sentire questa notte dopo lo 0-0 di Argentina-Perù. Nos tocó esto, hay que affrontarlo, enfrentarlo, y seguramente, como decía antes, con la convicción que como lo hizo el equipo hoy, vamos a ganar el Ecuador. Insomma, andiamo a vincere in Ecuador. Io sono convinto, carissimo Daniel, e dall'accento si capisce, inutile che stiamo a ricordare ai nostri amici a casa che tu sei argentino, sono convinto che un mondiale senza l'Argentina non può essere, ma anche che ogni tanto accade l'ineluttabile. Sì, potrebbe, è successo, nel 58 è successo, potrebbe risuccedere. Diciamo in ogni caso che questo arrivo così al filo dell'ana con la vita appesa a vincere in altezza dell'Ecuador e Quito, ci cade come un vestito nuovo. E gli argentini siamo per natura, la musica che hai appena fatto sentire di Astor Piazzolla potrebbe anche essere semplificatrice, amiamo la epica. Sai quando si trovano per strada due argentini cosa si dicono? Si riconoscono, vedi, io riconosco uno che va con la maglietta argentina per la strada. Sai come gli dico? Aguante Argentina. Gli dico, resista Argentina, sì. Resistere. Questa è la nostra nota magica, questa è la nota che ci differenzia. E credo che arrivare a questo finale così melodrammatico ci sta, è parte del nostro DNA. Certamente io avrei voluto avere una notte più tranquilla. Ma credo che ne avreste fatte volentieri a meno. Aspetta che saluto anche Pierluigi Pardo che ci ha raggiunto. Ragazzi, ciao Piero. Ciao. Io credo, ovviamente adesso gli scongiuri si possono fare. Credo che quello che è successo negli ultimi due minuti abbia semplificato molto le cose e sono abbastanza convinto che alla fine l'Argentina ce la farà. Rimane il mistero. Rimane il mistero di una squadra che ha un potenziale offensivo così enorme, al netto delle scelte dell'allenatore, e che ha il secondo peggior attacco di tutto il girone, tutte 10. È di una squadra che ha così tanto talento, ma non riesce a amalgamarlo. È veramente. Ma anche perché non lo fa giocare. Insomma, questa notte Dybala è rimasto seduto, sì, Icardi è rimasto seduto, Higuaín è a Vinovo. Esatto, quindi voglio dire che ci sia un problema, e anzi quello che gli voglio chiedere è proprio questo: se c'è un effetto Messi, cioè una cosa che non si capisce da qui è perché è chiaro che non è che possono giocare tutti e cinque insieme, e quando sono stati fatti dei tentativi fantasiosi per far giocare tanti attaccanti insieme non ha funzionato tantissimo, ma c'è qualche questione che non sappiamo all'interno dello spogliatoio. Quanto pesa Messi nelle scelte? Daniel? Secondo me pesa tanto, Pierre. Secondo me è naturale che pese. Cioè il fatto che non giocasse Dybala, che ha riconosciuto da tutti, è lo stesso Dybala, si pescano un po' i piedi. Però credo che la lettura va fatta più là, l'ansietà, l'ansia, la voglia di fare bene molte volte è traditrice. Avrete visto come ha pareggiato l'Argentina contro il Perù, vuol dire con un palo di Messi, con Benedetto sbagliando almeno 3 chiarissime occasioni di gol, con altre 4-5 opportunità meno chiare di quelle, però sempre opportunità. C'è un momento nel che, come dicevo all'inizio, la pressione inizia a essere così tanto forte che la vista viene nubilata, e alla fine il cambio di scenario, la bombonera che date e tutto quanto conta zero, perché in realtà quello che conta nel calcio è la squadra e non il singolo. Sì, no, però no, mi viene in mente, Daniel, tanti, che ce n'era uno che aveva la maglia numero 10 dell'Argentina che di queste pressioni si nutriva. No, ma non sono d'accordo. Dell'idea di caricarsi una nazione sulle spalle, cosa che secondo me ha voluto fare ieri Messi, fuori tutti, io gioco, però il risultato è stato quello. Ti ricordo, Giovanni, quella persona che è stata la storia del calcio del mio paese, mi ha fatto orgoglioso di girare il mondo seguendolo dappertutto. Comunque ha sbagliato nel Mondiale 90 un rigore che ci lasciava fuori, lo ha salvato Goicoechea, il portiere che era in rimplazzo del portiere Pumpido, che si aveva fatto male. Anche lui ha avuto la pressione, altri l'hanno messa dentro. Ricordo che contro Perù al Mondiale dell'86 Argentina è arrivato all'ultima partita senza la classificazione sicura, l'86, quando ha vinto con il gran mondiale di Maradona, e ci ha salvato Passarella di testa. E anche Pasculli, con cui ho parlato ieri, anche Pasculli, esatto, in Argentina-Perù. Voglio dire che questa non è una situazione nuova, per quello ti parlavo all'inizio di quella passione per la epica, che tante volte ci fa male. E io però voglio dirti, carissimo Daniel, che ancora una volta questa notte, dopo averla vista, siamo andati a dormire, almeno io, col sospetto che questo 10 non sia come quello, almeno a livello di calcio argentino. Dipende, si diceva che Maradona giocava da solo, però mi ricordo che la finale il gol ha dovuto uno che era portato a fare il mate, si chiamava il Tata Brown. Ha fatto il primo gol contro la Germania in quel mondiale dell'86. Li ho visti giocare, li ho visti allenare. Seguo adesso la Champions per tutta Europa, per la ESPN, pensando sempre che giocatore migliore sto vedendo. E come Messi, in questo momento non c'è, credo non ci sia stato. Ti dico di più, io penso che, con tutto il rispetto, in questo momento è molto meglio Cristiano Ronaldo che Maradona, già. Addirittura. Se Cristiano Ronaldo, con il suo fare così speciale, fosse stato nato argentino, sarebbe idolo delle masse. È vero. Questo qua è molto tranquillo, è un leader calmo, e ogni tanto questo tipo di cose vendono meno. Sì, i leader calmi, Pier, non funzionano. Allora, vi cito un tweet di un'oretta fa di Tancredi Palmeri: l'Argentina deve vincere in Ecuador. L'Argentina non vince in Ecuador da 16 anni. Nelle ultime 4 partite in Ecuador ne ha perse 2, ne ha pareggiate 2. Dal 1960 ha vinto soltanto una volta. Questo non per sgretolare le vostre certezze, ma per dire. No, ma certezze non sono certezze. Per dire, insomma, per dire che non è facilissima. Esiste, guarda, al netto di tutto, esiste una difficoltà del girone della CONMEBOL, no? del Sud America, che è una difficoltà che da qui magari facciamo fatica a capire. In qualche modo si lega anche alle difficoltà legate al viaggio di tanti giocatori, cioè ci sono degli aspetti alla, al tipo di clima che c'è negli stadi, perché altrimenti non avrebbe veramente senso pensare che dopo 18 partite, che sono praticamente il girone d'andata di un campionato europeo, quindi un lasso di tempo sufficientemente grande per fare la differenza, l'Argentina sia al sesto posto. Ci sono sei squadre in quattro punti, tra l'altro. È come pensare che il Real Madrid o che il Barcellona possa essere al sesto posto dopo 18 giornate, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Ma evidentemente lì c'è una difficoltà, è tutta una specificità, tutta sudamericana, che a noi da qui sfugge. Ragazzi, siamo vicini al traffico, ma non posso non farvi sentire una cosa, e poi voglio un pensiero rapido da Daniel Martinez e poi andiamo in traffico. Dopo il traffico c'è un grande ospite per parlare di Milan. Mi fate sentire Gago. Ay, ay, ay, che momento della noche. Questa è la scena di Gago che si fa male, i medici gli dicono che si è rotto il legamento crociato del ginocchio e lui dice: non mi interessa, per cortesia fatemi giocare. Si alza, torna in campo, poi ovviamente è durato poco, Daniel? Sì, è quello che la garra. Questo dico. Quando si dubita dell'entrega che possa dare un giocatore della nazionale argentina, si commette una grandissima ingiustizia, anche nel caso di Messi o di chiunque. Io penso che Higuaín avrà visto questa partita con una sofferenza unica, per star fuori, per stare lontano, per tante cose. La entrega di un calciatore argentino quando si mette l'albiceleste sulla pelle è una cosa poco difficile da raccontare. Difficile da raccontare. Grazie Daniel, mi dici sì o no se contro l'Ecuador giocano Icardi e Dybala? Penso di sì, assolutamente sì. Ciao Daniel. Un abbraccio. La settimana prossima, Pier, c'è chi ci scrive che il mondiale può perdere anche l'Italia e il Portogallo, cioè potrebbe perdere anche Ronaldo, un mondiale senza Ronaldo e Messi. Ma ci pensate, è roba da andare in vacanza quest'estate, traffico. Subito dopo l'intervallo, la lotta continua. Tutti convocati. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Convocati. Allora, saluto Renzo Rosso, patron di Diesel, grande tifoso del Milan, buon pomeriggio. Eccomi qua, buon pomeriggio a tutti voi. Grande tifoso del Milan, e quindi adesso abbiamo da parlare, perché oggi la paginata sul Corriere della Sera con le sofferenze di Silvio Berlusconi su come sta andando il Milan è qualcosa che sta facendo discutere, carissimo Pier, e adesso cerchiamo di capire. Il signor Diesel, per quei pochi che non lo conoscono, oltre a essere un grande tifoso del Milan, è anche partner di questa società, disegna le divise ufficiali, quelle che portano i giocatori al di fuori del campo, e sta cercando un amministratore delegato, se qualcuno è interessato, con un metodo innovativo che io vorrei portare anche nelle società di calcio, e cioè fare la selezione su Facebook per cercarsi l'amministratore delegato. Io cercherei l'allenatore, magari ci può pensare il Milan se mandano via Montella, non lo so, Rosso. No, speriamo di no, dai. Io penso che Montella è veramente un bravo allenatore, ha delle grandi capacità. Infatti, quando lui ha fatto l'inizio del campionato, aveva un gioco che veramente io ero strainnamorato, cioè riusciva a far girare la squadra, saltava gli uomo e si trovava sempre davanti alla porta. Non so cosa stia succedendo veramente adesso, si tratta solamente un po' di perfezione. Spero che Montella rimanga, perché io sono un grande suo stimatore. E anche perché su Facebook si può cercare solo un amministratore delegato. No, ma è vero, questa cosa che sto raccontando, no? Ah sì, questa è la nostra idea di marketing, quindi è nata così. Il giorno in cui abbiamo saputo che il nostro CEO andava via, che poi siamo per certi aspetti anche onorati del nuovo posto che ha preso, perché è andato a fare il CEO di Tiffany Mondo, e che vuol dire che la scuola Diesel è una bellissima scuola di management. E quel giorno lì sono andato dal mio direttore marketing e ho detto: senti, guarda, la sento troppo forte, voglio avere comunicazione, dialogo con i millennials, con la gente che ci ama, perché non lo cerchiamo con i nostri social network? Lui mi ha mandato a stendere, ovviamente. Invece devo dire, dopo due giorni è tornato con i suoi uomini, mi ha detto: ne abbiamo parlato, è una buonissima idea. E dopo abbiamo sviluppato questo video che avete visto ieri nei nostri social. Certo. Sai cos'è, Pier, la qualità che i candidati devono dimostrare di avere per diventare amministratore delegato di Diesel, quindi sì, andate su Facebook, devono dimostrare di avere un'indiscutibile abilità nel sedersi. Sì, perché è un gioco. È perfetto per gli allenatori, ragazzi. È perfetto. Io stavo già mandando il curriculum, anzi, lo sto mandando via Facebook. Ho passato in Procter & Gamble, anche se lì è mass market. Ma insomma, no, a parte le battute, ci vuole una certa capacità per sedersi. Sì. Quindi, anche per scollarsi dalla sedia, così restiamo. Dico, quando è finita. Dico, ma il nostro è un gioco, quindi andiamo da CEO a chair. Quindi diciamo c'è una sedia vuota, chi vuole venire ad occupare questa sedia offriamo la possibilità per una settimana di sedersi vicino a me. Che poi la storia è vera. Io non voglio essere maligno, potrebbe essere lo stesso discorso di Fassone, una settimana, 10 giorni. No, ma guarda che poi c'è il derby. Alla fine, se ci pensi, è una cosa bella. Io ho assunto la mia carriera tanta gente, mi ricordo addirittura dallo studio 54 in Olanda, ai bar in Inghilterra, a Londra, quando trovo della gente pazzesca per la strada, ho preso della gente proprio sull'intuito. E devo dire, poi adesso c'è questo concorso, chi vincerà questo concorso, che è già la settimana prossima, alla fine si siederà una settimana vicino a me, quindi potrebbe anche essere che magari non è un CEO, ma potrebbe essere una persona fantastica per fare qualcos'altro. Che può fare qualcosa. Nel mondo della moda, l'elemento della creatività, che in realtà va bene pure a uno che fa il direttore marketing di un'azienda di bulloni, e quindi va bene per qualsiasi settore del business, perché la creatività è un plus, è ovviamente imprescindibile. No, io volevo chiedere che tipo, perché questa credo che sia forse la cosa che può rassicurare di più i tifosi del Milan all'ascolto. Voi avete fatto una scelta che non è soltanto ovviamente una scelta di cuore, è anche una scelta di cuore per un certo tipo di passione rossonera, ma insomma voi avete deciso di credere in questo brand al di là dei risultati, perché insomma comunque il Milan viene da una serie di stagioni che non sono straordinarie. Perché questa scelta? Insomma, i tifosi del Milan possono essere sicuri che tra 10 anni traduco, ci sarà comunque un grande traduco, Milan. Ha ragione Renzo Rosso o ha ragione Berlusconi, che oggi al Corriere fa sapere di avere perplessità sulla solidità di questo Milan? No, io non ho perplessità, io penso che la nostra scelta è stata una scelta bella, studiata, è partita poi fra le altre cose, è partita con Barbara Berlusconi, lei cercava qualcuno per fare lo styling partner e noi abbiamo detto sì, se ci date la possibilità di fare dell'innovazione, quindi siamo partiti sull'innovazione, sapevamo che stava per arrivare i nuovi partner, con i nuovi partner abbiamo instaurato un bellissimo dialogo. Penso che hanno dimostrato di aver fatto una grande campagna acquisti, comunque mettere insieme tutti i giocatori nuovi, bisogna dire anche che non è facile. Oggi Berlusconi ha detto che è sbagliata, che con quei soldi si doveva prendere un top player, è d'accordo? Un Suso per esempio non era un top player, è uno che sta andando molto bene, Andrea Silva potenzialmente potrebbe diventare qualcosa di incredibile, il giocatore del Monaco che adesso non mi ricordo il nome è stato venduto a una cifra esorbitante, a soli 18 anni. Sì, ma poi i top player il Milan li ha presi, perché Bonucci è un top player. Insomma, noi dobbiamo ricordarci che cosa abbiamo detto per tutta l'estate, perché altrimenti diventiamo schizofrenici. Invece ci vuole, secondo me, grande onestà intellettuale. Poi è ovvio che i risultati in questo momento non sono all'altezza e alcune perplessità in questo momento ci possono essere, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista finanziario. Quindi Berlusconi, secondo me, parla da tifoso e parla di una prospettiva di medio-breve periodo che indubbiamente è avvolta dalle nuvole. In prospettiva il Milan, secondo me, proprio anche grazie a quello che è successo nei 25 anni della presidenza di Berlusconi, è un brand talmente grande, talmente importante, talmente conosciuto nel mondo, che fa sì che il futuro del Milan magari non sarà in questa stagione, sarà da qui a qualche anno, ma sarà comunque inevitabilmente un futuro luminoso, perché si va sempre di più verso un calcio dominato da 15-20 brand internazionali con una storia di un certo tipo, e credo che questo, al di là ovviamente degli aspetti sentimentali, abbia anche spinto Rosso a investire nel Milan, certo. Io sono un grande tifoso milanista da sempre, sono nato milanista ancora dai tempi di Massimo da Rivera, ho scelto Rivera, ho scelto il Milan perché Rivera era più simpatico, Bazzola invece non so, aveva più appoggi politici, quindi non mi è piaciuto, quindi sono andato nel rossonero. Ma al di là di tutto, ho conosciuto poi la proprietà cinese e devo dire che le intenzioni sono veramente di fare una delle squadre più importanti del mondo, per cui ovviamente ci vuole del tempo. Adesso siamo sempre tutti là a criticare, a parlare, perché noi italiani siamo veramente abituati sempre a parlare, ma io penso che il Milan potrà diventare una grandissima squadra. E ne parliamo perché ha parlato Berlusconi, non uno qualsiasi. Dopo quanto si capisce nel suo business se una collezione funzionerà o non funzionerà? La collezione è diversa, perché la collezione tu la presenti ai buyer che ti comprano. Se comprano vuol dire che piace, se non comprano vuol dire che non piace. La squadra invece ci sono troppi motivi, troppe varianti per i quali a volte il risultato non viene. Cioè tu prendi l'ultima partita, potevamo vincere con la Roma, cioè purtroppo è andata così. Se il Milan vinceva con la Roma saremmo qua tutti a dire che figo, che bravo Montella, che bravo il Milan. Tranne Berlusconi, che ha ricordato che lui gli dava consigli, poi Montella chiudeva la telefonata dicendo: tanto la formazione la faccio io. E quindi Berlusconi preferiva tenersi Brocchi, perché questo c'è, cioè, oggi sul Corriere della Sera. Difatti Brocchi ci ha portato a non andare neanche in Coppa. Se invece tenevamo Mijanovic, noi saremmo andati in Coppa. Cioè, per cui la vedo poco allineato con Berlusconi. Non dimentichiamo una scelta pazzesca di Berlusconi, quella di non vendere Pato, che quella volta lì Pato andava a Saint Germain, sì, gennaio e noi ci portavamo 2012 a casa Tevez e praticamente avremmo vinto il campionato. Cioè. Sì. Ho un minuto, posso chiedere a Renzo Rosso se gli piace Bonucci capitano, altra puntura velenosa di Berlusconi. Ha detto: non si può fare capitano uno che è bandiera della Juventus, cioè Montolivo la fascia doveva prenderla lui. Questa domanda è una domanda difficilissima. Devo dire, non gli piace. Hanno dovuto dare probabilmente credito a questo grande acquisto. Sono un grande fan di Montolivo, però devo dire. Hai capito, Pier? Vabbè, quindi qui almeno su questo tema. Quindi la chiave di lettura, secondo me, è che Berlusconi, come sempre, prova a parlare alla pancia, in questo caso dei tifosi del Milan, poi non tutto verrà condiviso, e tanti ci stanno scrivendo, 349-238-6666, però su qualcosa va sempre a pungere. È così, come tutte le cose, c'è sempre una fonte di verità o di ragione. Pier, poi abbiamo la borsa. No, ma io sono devo dire, colpito dalla schiettezza di questo dialogo a distanza, perché poi ci sono veramente delle grandi personalità di imprenditori che quindi sono abituati ad avere delle idee, con queste idee che sono quasi sempre vincenti. Quindi questo intuito e questo senso, il discorso vale per Berlusconi, che comunque Milan l'ha amministrato benissimo per la grande maggioranza della sua esperienza, sarà un presidente incredibile, e ovviamente vale anche per chi invece crede in questo nuovo Milan, sulla forza di questo club, e chiede giustamente, secondo me, un po' di pazienza. La pazienza è un elemento fondamentale nel calcio. Poi è chiaro che noi, il calcio è talmente una religione che se ne parla tutti i giorni, e quindi ogni giorno c'è un verdetto, e poi le cose possono cambiare. Il tema è assolutamente questo. Siamo a ottobre. Pensa, Pier, cambiano così tanto che il 20 luglio Berlusconi diceva, a proposito del mercato del Milan, tutto con Golante, aggiungo io: avevo assicurato in prima persona che ci sarebbe stato un generoso investimento, ed è sotto gli occhi di tutti. L'investimento della nuova proprietà è persino in misura superiore alle più rosee aspettative. 20 luglio, ma il calcio è liquido, quindi, abbiamo la borsa, dobbiamo salutare Renzo Rosso, però noi andiamo oltre. Lui cerca l'amministratore delegato su Facebook per una settimana, noi gli vogliamo cercare un agente di commercio su WhatsApp. Ha scritto un tale, no, non si è firmato, se serve un agente di commercio su zona di Milano. Ha scritto su WhatsApp, andiamo oltre noi. Provi a candidarsi, non si sa mai. Sicuramente la gente brava merita di essere vista. Alla prossima, grazie. Ciao a tutti, buona giornata. Ciao a tutti. Ciao. Torniamo, adesso parliamo anche della nazionale. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Io lo sapevo, che le parole di Berlusconi avrebbero diviso i tifosi del Milan. C'è chi ci scrive: Berlusconi incontestabile per quello che ha dato al Milan. C'è chi dice: si avvicinano le elezioni, quindi fa comodo provare a parlare alla pancia della gente, soprattutto dei tifosi del Milan. Ma insomma, di sicuro c'è da chiedersi perché. Perché Berlusconi esca allo scoperto oggi? Perché De Laurentiis, che oggi abbiamo visto su tutti i giornali, esca allo scoperto dicendo: vorrei stare 10 anni con Sarri, ma se mi dirà che se ne va ce ne faremo una ragione. Che non è, credo, no, Piero, un modo elegantissimo per cercare di trattenere il proprio allenatore. No, però è un modo molto De Laurentiisiano. Ah. De Laurentiis in questo ha avuto ragione. Cioè, ha dimostrato che ha potuto costruire una grande società a prescindere da... dalla Vezzi, a prescindere da Cavani, a prescindere da Higuain. De Laurentiis, anche qui, no? Abbiamo letto Berlusconi, abbiamo sentito Renzo Rosso, qui parliamo di De Laurentiis. Questi sono uomini comunque che hanno costruito degli imperi, delle imprese, che si fidano del proprio talento, che si fidano del proprio istinto, che sono consapevoli di potersela cavare in tante situazioni. E in qualche modo è anche vero. Fanno anche cose che gli altri non avrebbero fatto. Ecco, non è che se Sarri dovesse lasciare il Napoli sarebbe finito, così no. Come non è finito la partenza di Higuain. Detto questo, poi io penso che lui stia lavorando per il rinnovo di Sarri. Penso che stia lavorando per il rinnovo di Sarri. No? Non credo intanto che ci siano potrebbe dubbi anche, potrebbe anche cominciare con un aumento, visto che Sarri oggi credo sia il quinto, sesto come stipendio in Serie A tra gli allenatori. 800240024, Marco. Pronto? Vai. Buongiorno, senta. No, io volevo dire che Berlusconi per me ha fatto tornare grande il Milan. Io pianto quando abbiamo perso Verona nel 5-3, io ero un bambino sempre tenuto in Milan, con Berlusconi siamo tornati grandi, abbiamo vinto 9 campionati, 5 coppe dei campioni, in quel periodo il Manchester United ha vinto 2 coppe dei campioni e Ferguson è stato fatto Sir Alan Ferguson. Quindi, si può permettere tutto, cosa no? Ha fatto Berlusconi, quindi in quel si periodo può permettere tutto. Cioè, ecco, non sto a parlare delle supercoppe europee. Sì, ma non farmi il palmarès di Berlusconi, che più o meno lo conosciamo. No, insomma, voglio dire che Berlusconi ha fatto grandissimo il Milan. Il Milan è diventato la squadra più forte del mondo. Poi dopo, io credo sì, che ma adesso ti va, Marco, nel miglior modo possibile. Magari c'è anche riuscito. Andrea da Modena. Sì, pronto. Vai. Buongiorno. Io volevo sapere il vostro parere su due mie idee, considerazioni. La prima è relativa alla nazionale, che mi pare che si parli poco, spero che non abbiate parlato in settimana perché non sono riuscito a seguirvi sempre. Purtroppo il lavoro chiama. Ci sono sempre i permessi e le ferie, però prego, Andrea. Sì, sono libero professionista, quindi lo ce l'ho. Detto ciò, su Jorginho, che a me pare perché non viene chiamato? Che non si è chiamato il regista della squadra che gioca il miglior calcio in Italia. Allora, ti faccio rispondere, Andrea, da Maurizio Crosetti. Maurizio, Jorginho. Eccoci, beh, tanto sì, ciao. Non è che si possono chiamare tutti, un allenatore deve seguire il suo progetto, il disegno che ha tracciato inizialmente, certo con contributi vari ed eventuali che il campionato possa suggerire, e ogni allenatore vede o non vede alcuni giocatori. Evidentemente Ventura Jorginho in quel ruolo non l'ha visto finora e credo che non possa vederlo nell'epilogo della qualificazione, e non può chiamarlo adesso, secondo me, anche se indubbiamente sta giocando un'ottima stagione. Sì, io ho buone sensazioni per stasera in generale, da qui al playoff, perché Ventura nervoso che abbiamo sentito ieri, dai, si è anche sbagliato, ha detto siamo già qualificati, non è vero, manca almeno un punto, eccetera, però mi fa tanto quella cosa che alla nazionale italiana ha sempre fatto bene, cioè quel senso di polemica, sì, di accertamento, senso di casino che a noi serve, no, una no, sana incazzatura, direi è una caratteristica degli italiani in generale, il nostro essere un po' last minute, grandi quando le situazioni sono complicate e bisogna muoversi, il senso d'urgenza che a noi tante volte manca e quando c'è invece ci porta a fare il meglio. Adesso il senso d'urgenza c'è perché sicuramente siamo messi non bene. Jorginho è un buon giocatore, è un grande playmaker di centrocampo, molto ordinato, molto preciso nel centrocampo del Napoli quando gioca spesso. ma non sempre, quando gioca fa la differenza, perché sono un giocatore sicuramente di grande ordine, però appunto dipende come vuoi giocare. L'ultima partita veramente importante, che è stata quella al Bernabeu, completamente sbagliata, sappiamo che è stata fatta una scelta, secondo me, al di là degli interpreti, sbagliata, cioè 4-2-4 con un centrocampo che è andato in sofferenza fin dai primissimi minuti, quindi è più un discorso, secondo me, di modulo e di approccio alla partita e forse anche di qualità che intanto oggi giochiamo con un modulo visto una volta un anno fa in amichevole con la Germania, Maurizio, non so se sia un rischio calcolato, non so come vederla. Un rischio calcolato certamente lo è, ma poi alla fine bisogna vincere questa partita in qualche maniera, al di là dei moduli. In questo Ventura ha ragione, non dobbiamo fossilizzarci troppo sugli schemi, ma sulla motivazione, sull'impeto, sulla superiorità che comunque la nostra nazionale deve esprimere rispetto alla Macedonia, sull'urgenza di non essere non soltanto estromessi dalla qualificazione, ma risalire, migliorare un poco questo ranking. Quindi due vittorie adesso intanto, e poi si vedrà, e poi tra un mese, il 17 di ottobre c'è il sorteggio, e tra un mese ci sono questi benedetti spareggi contro squadre che nel quadro generale sono tutte la nostra portata, e ci mancherebbe altro. Ma sono anche tutte potenzialmente pericolose, ma quello ormai il calcio è così, poi è pericoloso per l'Inter Benevento, e poi vinci lo stesso, però il Benevento piglia il palo alla traversa e ti fa soffrire, è così oggi. È pericoloso, sono pericolosi 180 minuti. Cioè, che è un po' il discorso, la vera anomalia rispetto all'Argentina, cioè quello che è incredibile è che l'Argentina dopo 17 partite sia a rischio eliminazione, in questo momento sia ancora tecnicamente più fuori che dentro, anche se poi magari ce la farà, perché comunque alla fine le qualità, nella più partite hai a disposizione per mostrare la differenza tecnica rispetto alle altre, e più e meglio è, no? E l'Argentina non ci è riuscita. È chiaro che per noi, mentre insomma adesso non so quale sarà l'avversaria, sicuramente noi avremo qualcosa in più se siamo testa di serie della nostra avversaria. Il problema è che lo devi dimostrare in 180 minuti, e 180 minuti ovviamente significano che sei molto più appeso all'episodio, alla giornata che diventa una sfida di dettagli. Esatto. Allora, siamo praticamente al traffico. Io saluto Pierluigi Pardo, ci sentiamo domenica alle 17. Ciao. Oggi non c'è la schedina, settimana scorsa ha vinto Pier, lo dico, dopo 6 mesi, quindi siamo 3-1. Anche nettamente. Diciamo, ma vale sempre uno, carissimo Pier. Anche nettamente, ma vale sempre uno. La settimana in cui si è parlato di VAR ho vinto nettamente, senza cose, mentre in passato sappiamo benissimo. Certo, volte Capuano ha approfittato degli errori arbitrali. Bravo. Io approfitto di Maurizio Crosetti e voglio un suo parere proprio sulla guerra del VAR. Non abbiamo tempo per i file, ma ieri abbiamo sentito Spalletti dire: sto con il VAR, bisogna andare avanti, chi lo vuole eliminare evidentemente pensa di poter avere dei vantaggi. Io non so se alludesse a qualcuno o no. Oggi Marotta ha risposto: la posizione della Juve è quella che un supporto tecnologico di aiuto all'arbitro serva, quindi benvenga, non lo temiamo, l'accettiamo, ma è un protocollo sperimentale, parliamoci perché alcune cose non vanno bene. Questa è un po' la sintesi di un lungo e articolato ragionamento. Ma è possibile che bisogna sempre stare a discutere intorno alla Juve? VAR sì, VAR no, chi lo vuole, perché vuole dei vantaggi? Io è vero, questo sarebbe bene scindere le due cose, però di fatto da Buffon, passando per Allegri e continuando per Marotta e arrivando a Paratici, che si è preso pure l'inibizione, la sospensione, quel che è, guarda caso in questi 2 mesi scarsi di VAR e di campionato, la Juve ha avuto modo di lamentarsi molte volte di una cosa che è sicuramente perfezionabile, lo sarà, ma che indubbiamente ha portato finora a più vantaggi che svantaggi. C'è poco da fare, aumenta l'esattezza del gioco, diminuisce le proteste dei giocatori, fa perdere un po' di tempo, ma fa acquisire un po' di certezza, e secondo me nel cambio ci si guadagna. Dopodiché si arriverà a perderne meno di tempo ed avere qualche certezza in più, ma insomma sì, è un processo, irreversibile. E di questo insomma mettiamoci l'animo in pace. Grazie Maurizio. Grazie a voi, ciao. Grazie Maurizio Crosetti. Traffico, arriva il maestro Leo Turrini, vi diciamo come sta andando la mattinata di Suzuka. Noi abbiamo bisogno di ognuno di voi. Domenica zero deleghe, tutti convocati. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta. Convocati. maestro Leo Turrini, che è incastrato nel traffico della Pero Cormano, come chiede Luca da Bologna, ma adesso cerchiamo di farlo accostare e di agganciarlo. Ferdinando da Reggio Calabria. Ferdinando? Ferdinando? Allora, abbiamo pronto? Qualche problema. Ecco qui, vai Ferdinando. Sì, ci sono. Dai. Pronto, buongiorno. Sì, sei in onda. Buon pomeriggio. Dai, forza Ferdinando. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Finalmente convocato. Vai. Niente, sulla nazionale volevo intervenire un po' su quello che è il momento della squadra. Sì. Dico che io a volte amo farmi del male, no? Ho rivisto un po' l'europeo dell'anno passato, quando noi abbiamo davvero fatto male alla Spagna. E dico che abbiamo giocato quell'europeo con una squadra che non mi sembrava fatta di grandi fenomeni. Ricordo partite con Giaccherini, ricordo partite con Sturaro, però ho visto una squadra che aveva fame, una squadra che aveva voglia, una squadra che ha messo sotto la Spagna, cose che invece quest'anno non ho visto, cioè nella gestione Ventura veramente, è una squadra senza mordente, non rispecchia per nulla quello che è l'atteggiamento di un allenatore aggressivo. Cioè, Ferdinando, penso che tu abbia ragione, però ti ricordo che si diceva qualcosa di simile anche di Antonio Conte prima che iniziasse l'europeo. Cioè, nell'anno e mezzo di Conte prima di arrivare all'europeo non ci sono grandi partite, c'è una vittoria con l'Olanda all'inizio, ma poi abbiamo scoperto che l'Olanda insomma ha i problemi che conosciamo, e poi tante partite, nessuna con vette di rendimento eccellente, e che credo sia poi il discorso che si può fare anche con Ventura. I numeri non sono contro Ventura, abbiamo 19 punti, siamo più o meno dove dovevamo essere, dove sapevamo che saremmo stati dal momento del sorteggio. E poi vediamo, se andiamo al mondiale vediamo cosa sapremo cavar fuori. Andrea dalla provincia di Monza Brianza. Andrea. Sì, ciao a tutti. Vai. Niente, velocemente, una proposta per quanto riguarda il VAR. Io sono appassionato di football americano, quando tempo guardo qualche partita. Un paio di cose che si potrebbero mutuare: la chiamata del football americano arriva come challenge dagli allenatori, l'allenatore che decide quando far intervenire Damo Viola. Questo toglierebbe anche un po' di discrezionalità nell'intervento dell'arbitro, che oggi c'è ancora di fatto con il VAR. Sì, aspetta, ti rispondo sulla prima, perché è un argomento affrontato anche da chi ha scritto il famoso protocollo che prima ha evocato anche Marotta. E la risposta è che non serve che l'allenatore chieda l'intervento, perché gli arbitri VAR, quelli dietro il televisore, già osservano tutte le azioni e certamente hanno una visuale migliore di quella dell'allenatore. Così dice l'IFA. Beh, prego Andrea. Però è sui rapporti, ecco, proprio sui rapporti, trasparenza, diciamo, nel football americano sapete che l'arbitro è in collegamento con gli altoparlanti dello stadio. In questa maniera le decisioni, le più importanti, vengono comunicate alla tifoseria, che sa per certo il motivo per cui è stata presa una decisione. Io questo magari è un particolare, può sembrare influente, ma migliora dal mio punto di vista il rapporto col clima, diciamo. Ma magari ci arriveremo, Rizzoli ha detto ieri, magari arriveremo, anzi sicuramente prima o poi arriveremo ad avere anche i replay trasmessi nello stadio. Io oggi mi accontenterei che il famoso protocollo di 67 pagine fosse reso pubblico, mentre pubblico non è, e credo che se la gente lo leggesse, anche gli addetti ai lavori, tante polemiche ce le potremmo risparmiare. Aldo da Milano, Aldo. Sì, buongiorno. Dai. Niente, nella mia era soltanto un intervento un po' così, mi chiedevo proprio se questo nuovo strumento, la VAR, poteva mettere d'accordo tutti quanti. Secondo te, c'è il popolo, no, c'è purtroppo il popolo anti-juventino e il popolo pro-juventino. È bastato un mezzo problema di VAR con la Juventus su quel braccio dell'attaccante dell'Atalanta, per far scoppiare ancora un casino della Madonna. Siamo italiani, purtroppo, e siamo pro o contro la Juventus, non c'è niente da fare. Tutti gli strumenti possono essere, voglio dire, buoni o non buoni, ma appena appena c'è qualche sentimento pro a favore della Juventus diventa un casino che non funziona. È d'accordo con me? No. Perché no? Perché no? Mi dica perché no. Perché i problemi ci sono stati anche per altri, e perché anche altri l'hanno sottolineato, perché si è arrabbiata molto la Fiorentina, sul VAR si è arrabbiato, e l'avete sentito questa settimana qui da noi Urbano Cairo. Semplicemente che sì. I gol dati contro il Genoa nella prima parte del campionato non esisteva come gol secondo il metodo VAR. e nessuno, voglio dire, ha fatto una grinta. Abbiamo la Juventus, i tifosi hanno accettato questo problema e così è andata. Appena appena è stato a favore della Juventus. Ma dovremmo cercare di fare un passo avanti. Io non lo so, io per favore usciamo da questa cosa juventini e anti-juventini, almeno sul VAR. Abbiamo un minuto, dai, Francesco da Parma. Francesco, Leo Turini è incastrato, lo risentiamo domenica. Francesco. Ah, buongiorno a voi, vai. Buongiorno. No, volevo solo rispondere a Renzo Rosso. Che sì. Renzo Rosso ha detto che io stimo moltissimo. Il dottor Berlusconi non ha fatto uno sbaglio a tenere Pato, ha solamente fatto il papà. Che è uno sbaglio, se uno fa il proprietario di un grande club. Beh, vabbè, ho capito. O così racconta la storia. Così racconta. Sì. E lui ha fatto il papà. Forse questo è stato il suo errore. Tanti io non papà avrebbero fatto il contrario. Il fidanzato via, lontano dalla figlia. No, ma sto scherzando. Grazie Francesco, abbiamo finito. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Gianmarco Ferronato in regia. Torniamo domenica con tutti i convocati weekend dalle 17. Tanti avete chiamato oggi, vi richiamiamo domenica se avete voglia di risponderci. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!